Il pasto nudo. Cibo tra realtà e immaginazione. Di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Io vengo da una generazione che è stata allevata dal boom economico. Io vengo da una generazione per cui il mangiare corrispondeva a oggetti sintetici. Io vengo da una generazione innamorata dei formaggini che nulla avevano di formaggio, ma avevano forme strampalate, erano bellissimi. Io vengo da una generazione che è abituata a che la minestra era fatta con un dado di estratto di carne, una sorta di cubettino marrone in cui solo alcune foglioline di prezzemolo davano il senso che qualcosa di organico galleggiasse in quella minestrina. Io vengo da una generazione che sognava di poter mangiare il cibo degli astronauti, che altro non erano che delle pilloline. E adesso mi tocca vivere in una generazione attempata, per cui il vero valore del cibo è quello di essere segnato dal passato. Qualcosa è buono, qualcosa è genuino, se qualcosa come era fatto una volta. Qualcosa della vecchia nonna, qualcosa dell'antica zia, qualcosa del vecchio fattore, qualcosa dell'astuto contadino. Tutte le cose che la mia fanciullezza ha considerato orribili perché appartenevano al passato. E oggi invece mi tocca vivere in un'epoca in cui il cibo del passato è il cibo assolutamente segnato da una storia e quindi degno di essere ingerito. Oh potentissimo Trimalcione, in questo preciso istante scoccate la quinta ora dopo mezzogiorno. Ah, avete udito, amici? Un'altra ora della nostra vita se n'è volata via. Ed ora, amici cari, mangiamo, beviamo, godiamo il più intensamente possibile. Potrebbe essere l'ultimo giorno della vostra vita. E se per caso domani, risvegliandoci, dovessimo accorgerci che siamo ancora al mondo, ebbene ringraziamo gli dèi per averci dato un'altra giornata. Questo è ragionare da romano. E io romano sono. E mangio. Evviva Trimalcione! Eva Cantarella, saggista, studiosa della cultura e della società greco-romana. Se ci si domanda che cosa c'è di simile nella nostra cultura alimentare e in quella degli antichi, bisogna per prima cosa dire che bisogna distinguere i greci dai romani. Come sempre, noi tendiamo a parlare di antichi o di classici mettendoli assieme, e non sempre questo è vero, come potremmo vedere anche se pensiamo un momento appunto alla cultura alimentare. La cultura, cominciamo con la cultura alimentare romana. Ecco, quello che abbiamo ancora sono i tre pasti, diciamo, al giorno. La prima è la colazione, la prima si chiamava ientaculum, ma era praticamente poco o niente, un po' di pane, acqua all'inizio, qualche avanzo della sera prima. Poi c'era una specie di pranzo mezzogiorno, era interessante anche questo perché anche non ci si sedeva praticamente per questo pranzo, di nuovo si mangiava qualche cosa, ecco il formaggio era una cosa che si mangiava, anche la società naturalmente per la pastorizia era importante, e poi la cena che si faceva attorno al fuoco in casa, non c'erano grandi occasioni di banchetti pubblici, di occasioni sociali, poi le cose cambiano, Roma conquista terreni, diventa ricca eccetera eccetera, si espande, tutto appunto tutto cambia e a un certo punto, grazie soprattutto come sempre bisogna dire all'influsso greco, vediamo che le cose sono completamente cambiate, ma cominciano a cambiare già molto prima, per carità. A questo vino bisogna che gli fate onore, i pesci devono nuotare, grazie agli dèi io non compro, tutto quello che fa saliva ne viene da un mio podere che chissà dov'è. Dicono che sta tra Terracina e Taranto. Io me devo sconfinare con la Sicilia, perché me voglio fare un viaggio fino in Africa. Roma comincia ad apprezzare, che venivano chiamate da alcuni romani, le mollezze greche, tra cui anche la raffinatezza e l'interesse proprio culturale per il cibo, che non è più solamente un fatto di sopravvivenza, ma anche appunto di cultura. Nascono i primi chef e la cultura del cibo nasce tra l'altro in Magna Grecia. Gli chef più noti vengono dal territorio italico e diventano, ne parla persino Platone, di uno di loro che era diventato, viene chiamato il Fidia della cucina. Sono personaggi importanti, scrivono ricette molto raffinate. Si parla addirittura di un cuoco greco che avrebbe fatto un brevetto per un piatto. E tutto questo naturalmente arriva anche a Roma, dove peraltro le abitudini alimentari sono in parte greche e in parte molto diverse. Perché che cosa prendono dai greci? L'idea del pranzo, che è il pranzo serale, che si fa in compagnia, diventa un'occasione sociale, comodamente sdraiati, prima mangiavano in piedi, poi mangiano sui famosi triclini, che sono i letti sui quali sdraiati. Poi triclinio diventa anche la camera in cui sono scollocati i vari letti per mangiare, e quindi questo viene dalla Grecia, ma è molto diverso perché il banchetto serale in Grecia era il famoso simposio. Penso non vi sia godimento più bello di quando la gioia pervade tutta la gente. I convitati ascoltano nella sala il cantore seduti con ordine. Le tavole accanto sono piene di pane e di carni. Dal cratere attinge vino il coppiere, lo porta nelle coppe e lo versa. Questo mi sembra nell'animo una cosa bellissima. Omero, Odissea, libro undicesimo. Durante i banchetti, ai quali partecipavano rigorosamente solo uomini, cittadini o cittadini fieri, i ragazzi giovani, i paides, e solamente alcune donne che erano fondamentalmente ballerine, danzatrici o prostitute, etere soprattutto. Etere erano prostitute d'alto bordo che erano coltivate e sapevano discutere, quindi partecipavano anche a questi banchetti. Basta leggere i dialoghi platonici, si vede come il banchetto era un momento molto importante per la formazione proprio del cittadino greco. Si discutevano questioni, come sappiamo bene, cos'è la giustizia, cos'è il bello, eccetera. Tutto avevamo fuori che te. Oh, sanguinacci e frattaglie, una torta con miele caldo di Spagna, una lumaca a testa e come piatto forte orso con uova di papera incappucciate. Che quella colosona della mia signora se n'è mangiato tanto che poi ha dato di stomaco. A Roma tutto questo, ma soprattutto l'aspetto religioso, viene meno. Conta di più l'aspetto sociale. Nelle cene si fanno amicizie, si fanno accordi matrimoniali, si fanno alleanze politiche, e poi l'esibizione della ricchezza che viene mostrata attraverso una quantità di cibo incredibile. Le ricette romane sono addirittura orripilanti, cioè di una pesantezza e banchetti di una lunghezza incredibile. Sventralo qua, adesso! Meraviglia! I tordi, gallini ingrassati, ventrigli d'uccelli, colori salsicce, palombe piume tenere, chiocciole, rigate incappucciate, prosciutto, coratella, limaccione! Sono ricette assolutamente immangiabili, quelle romane. Quelle che il colesterolo non era un problema, insomma, non era un problema, forse lo era, ma loro non lo sapevano, poi probabilmente le conseguenze si sentivano, ma insomma erano pranzi lunghissimi, abbondantissimi. Ci sono naturalmente quelli che danno, ecco, per esempio, ci sono alcuni consigli che vengono dati da personaggi come Catone, anche Cicerone da quel consiglio, e allora uno dei consigli è iniziare il banchetto con la lattuga, perché pare che la lattuga all'inizio del pasto faccia molto bene. Non buttarti sugli antipasti, perché sennò poi ti rovini l'appetito. Tra l'altro, tra gli antipasti, questo è interessante, cioè, noi diciamo ab ovo, no? Beh, viene dal fatto che l'uovo faceva parte, si mangiava come antipasto. E siccome alla fine tra i dolci c'era dolci e frutta, si mangiava la mela, allora i romani dicevano ab ovo usque ad mala, cioè dall'inizio alla fine del pasto. Si sdraiavano su questi lettini, appoggiati sul braccio sinistro, e col destro si servivano del destro per mangiare cibi che venivano o portavano direttamente alla bocca o venivano tagliati dai servi, e così loro non, c'era anche il problema che non c'erano forchette, per dirne una. Dei cucchiai o delle mestoli con i quali si prendevano i brodi, le cose dalle zuppiere, no? Poi il resto venivano tagliati, c'era il coltello. È anche interessante questo: quando entravano in una casa, erano invitati a cena, si toglievano le scarpe che venivano restituite dagli schiavi quando poi si tornava indietro, e andavano a cena con una veste speciale che era diversa, la toga era pesante, applicata, e si chiamava la sintesis, viene dal greco anche questo, ed era un abito molto più leggero e molto comodo. Devo dire che Catone le ricette di Catone non sono granché, fondamentalmente sono cereali, miele e formaggio, questi sono gli ingredienti base, gli ingredienti poveri, ma insomma probabilmente non erano neanche male. Il pasto nudo. Mario Marotta, presidente dell'Associazione Italiana Archeo Cucina. Archeo Cucina nasce proprio da un assunto, l'idea che gli antichi avessero dei gusti non accostabili a quelli che sono i gusti dei nostri tempi. Infatti, chiedendo agli archeologi, la domanda era: ma fino a oggi chi è che ha preparato questi piatti? Giustamente gli archeologi. Noi con Archeo Cucina abbiamo pensato che l'esperimento andava completato e che quindi tutto, diciamo, l'apparato scientifico delle conoscenze, sia della letteratura che della ricerca sul campo, secondo noi andava portato in laboratorio, e quindi abbiamo costituito l'associazione proprio per portare la scienza nelle moderne cucine e quindi completare questo processo attraverso l'utilizzo, come dire, del tecnico di laboratorio, del cuoco moderno, che come quello antico rimane comunque un alchimista. E da questa esperienza oggi abbiamo completato circa una sessantina di ricette sperimentate e oltretutto poi portate al pubblico per vedere qual era il risultato. Abbiamo trovato che la nostra cucina antica di tutta la penisola, cercando di riprodurre nel modo più serio possibile il piatto antico, abbiamo scoperto una qualità del gusto accettabilissima, anzi addirittura interessante per i nostri gusti. Le ricette flegree di età classica. Sarago al forno in crosta di pecorino. È una delle ricette che Archestrato dice tipiche della Magna Grecia e che sicuramente non mancavano sulle mense delle colonie flegree. Procurati due saraghi di circa 500 grammi, squamali bene, eviscerali, tagliali a metà ed elimina la lisca. Ungi una teglia d'olio e ponici in mezzi saraghi con la pelle rivolta verso il basso. Cospargi il tutto con abbondante pecorino fresco grattugiato mescolato a pangrattato e prezzemolo tritato fino a coprire i pesci e innaffia con olio. Inforna il tutto in un forno e cuoci finché il formaggio non inizia a fondere e poi fai in modo di ottenere una crosticina dorata e croccante. Estrai dal forno la teglia, con le dita spruzza sui pesci pochissimo aceto di vino bianco e serve caldissimo. Tratto dal libro A tavola tra mari e vulcani, la gastronomia campana da 3500 anni tra bioarcheologia, storia ed ecologia, di Alfredo Carannante, Valtrend editore. Il nostro lavoro consiste proprio in quello di andare a ritrovare innanzitutto tutti gli elementi. In alcuni casi, per alcune spezie, abbiamo dovuto utilizzare dei succedanei perché si sono proprio estinte le spezie, però in buona sostanza riusciamo quasi sempre a recuperare il materiale originale. Ovviamente l'elemento, diciamo, che non potrà mai garantirci che il piatto è esattamente lo stesso è dovuto alla modalità col quale si approccia la cottura, però diciamo, in questo lavoro molto stretto tra ricercatori e scienziati e cuochi, lo sforzo è proprio quello di tendere a riprodurre anche l'ambiente della cucina il più simile possibile, quindi immaginiamo comunque di arrivare a un approccio abbastanza similare, se non proprio lo stesso. D'altro canto, questo è il compito della ricerca, noi non possiamo essere sicuri di riprodurre al 100% l'elemento antico, perché gli elementi chiaramente sono tanti. Ricette flegree di età imperiale, tettina tonnata. Procurati delle tettine di scrofa bollite o altrimenti di vacca, come quelle ancora vendute a Napoli con la trippa e il muso di vacca già cotti. Tagliane delle fettine di pochi millimetri di spessore. Pesta in un mortaio del tonno in salamoia o sott'olio con del prezzemolo tritato e dell'aceto bianco. Spalma la salsa tonnata sulle fettine di tetta. Guarnisci ognuna con una fogliolina di prezzemolo e servi fredde. Soprattutto in Campania siamo stati fortunati nel ritrovare alcuni siti archeologici dove addirittura erano intatti dei fornetti con il cibo in preparazione, questo anche sempre dovuto alle eruzioni del Vesuvio. E lì si sono ritrovati proprio frammenti di cibi preparati, cotti, e abbiamo anche riprodotto queste ricette. Abbiamo coinvolto vari chef, vari cuochi a sperimentare e a compiere con noi questo percorso di ricerca, attuando dei veri e propri laboratori di riproduzione dei cibi antichi. Ombelico del banchetto, focaccia agrodolce. Filosseno dice che il momento centrale del banchetto, quando viene fatta la pulizia dei pavimenti dove i convitati hanno gettato i resti di pasto e si dà inizio alla seconda fase accompagnata dalla distribuzione del vino, è segnata dall'arrivo di un'enorme focaccia ricoperta di salsa agrodolce per stimolare la digestione e stuzzicare l'appetito dei commensali. Di tale salsa non viene data la ricetta, ma nei testi romani, nel De Re Coquinaria di Apicio, si descrive una salsa agrodolce per digerire che potrebbe corrispondere a quella greca. Se vuoi provarla, riscalda un bicchiere di aceto con un cucchiaio d'acqua e scioglici 5 cucchiai di miele. Aggiungi 2 pizzichi di pepe, 2 di prezzemolo tritato, 2 di carvi pestato e 2 pizzichi di ligustico. Lascia sobbollire pochi secondi. Aggiungi alla salsa 2 cucchiai di colatura d'alici di cetara e 2 cucchiai di farina e mescola ancora finché essa non si addensa. Procurati una pizza alla napoletana scondita e servila dopo averla ricoperta con la salsa. La ricetta, che prevede una mescolanza di miele, aceto, salamoia di pesce e spezie, potrebbe suscitare sospetto nei moderni, ma in realtà, alla prova dell'assaggio, non è molto dissimile dalla salsa agrodolce cinese che accompagna spesso gli involtini primavera. Pompei ci restituisce sicuramente uno spaccato molto interessante di quello che era la modalità di cibarsi di tutti gli strati sociali. Diciamo che nel periodo romano la cucina era una questione molto sociale, il cibo si consumava in strada, in termopolium, anzi addirittura a Roma per esempio era vietato cucinare il cibo in casa, quindi abbiamo una ricchezza di elementi che riguardano il cibo popolare e contestualmente abbiamo anche descrizioni di banchetti molto opulenti, molto costosi. Per quanto concerne il periodo medievale, lì il discorso diventa proprio di struttura sociale perché c'era una grossa separazione proprio nell'ambito di quelli che erano i cibi da consumare, che erano divisi proprio tra clero, popolo e invece aristocratici. Lì c'è proprio una differenziazione molto grossa tra chi consumava cibi a base di pesce o a base di carne o a base di leguminose. I piatti più interessanti sono quelli che praticamente ricaviamo dal periodo romano. In questo periodo abbiamo preparato delle cene iniziando da una gustatio martialis che è indicata in alcuni testi di Marziale, dove praticamente si serviva l'ostrica, infatti in questo caso è proprio l'ostrica Lucrini, di cui sono stati ritrovati proprio i frammenti e anche proprio gli elementi che componevano queste cose. Poi un'altra cosa molto interessante erano delle insalate fatte con malva, lattuga, porro, menta, poi praticamente quelli che ancora adesso troviamo in Puglia, i lampascioni e le olive che erano sempre presenti. Poi c'è un piatto molto interessante che infatti è molto simile alla nostra lasagna, è questa patina apiciana che praticamente era in buona sostanza una lasagna preparata però con pesce e carne e con una pasta già all'epoca prodotta proprio come la nostra pasta della lasagna. Poi abbiamo riprodotto anche il pesce che loro cucinavano sia al forno e sia con l'uso delle braci. Abbiamo riprodotto sempre in questa cena quella che è la cassata di Oplonti, l'abbiamo chiamata così dall'affresco rinvenuto a Castellammare, dove è rappresentata una cassata che però è, diciamo, del tutto simile a quella che noi conosciamo, ma non fatta con gli zuccheri ma col miele, e comunque sempre con un nastro che è fatto col melograno, molto particolare, molto interessante pure questo piatto. E poi per finire con la mela, che è sempre un dolce per i romani ed è coltivata per la prima volta proprio nel cono vulcanico dell'Averno. Ombre de muri, muri de mainè, d'onde ne veni, dove le canè, d'encito du vali, a se mostrani, e a netana punto, cotelo agua.